va a sentir con me. Mi chiusa nei miei sogni, mi chiusa nei miei sogni, mi chiusa nei miei sogni, mi chiusa nei miei sogni. Non so che fai, non so che fare, vettore web, non sono strong. So cosa rischio, so cosa provo, ma non piace vederti così. Mi chiusa nei miei sogni, mi chiusa nei miei sogni, mi chiusa nei miei sogni. Se lo so come sei, non vede me, cazzo vuoi. Questo sbagliato è capitato, ti ritrovati di nuovo con me. Richiusa nei miei sogni, richiusa nei miei sogni, richiusa nei miei sogni, richiusa nei miei sogni. Beh, un po' di animo, insomma. Siete ancora così giovani? Questo è il concerto di carnevale, o sbaglio, no? Alberto, scusa per le spie.